Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Perché non ti zippi nel tuo abito da sera? Perché non tieni in mano un grande bouquet come se fosse una bacchetta magica? Perché non indossi una bombetta? Perché non metti fra i capelli una spilla giapponese? Perché non trasformi la tua pelliccia di ermellino in un accappatoio? Perché non metti in mostra i tuoi averi in una borsa trasparente? Perché non nascondi i tuoi fianchi in una giacca plissettata? Perché non indossi dei cappelli di frutta, magari con dell'uvetta o con delle ciliegie? Tutti questi stravaganti consigli di stile vengono da una celeberrima rubrica comparsa a partire dal marzo del 1936 su una vera e propria Bibbia della moda, la rivista Harper's Bazaar. Il titolo lancia i suggerimenti «Why don't you?» «Perché non?» Alcuni inviti a osare possono sembrare poca cosa se interpretati con il gusto di oggi, ma se contestualizzati nel periodo risultano davvero moderni. Altri sono delle provocazioni che hanno quasi la forma di umorismo dadaista. Se alla veste grafica di Why Don't You pensa all'art director Alexander Brodovich, pioniere dell'editoria americana, a rivolgersi alle lettrici con queste eccentriche proposte è invece una ragazza snob che della sua passione ha fatto un mestiere. Provocatoria, brillante, frivola e consapevole di esserlo, elegantissima, geniale e carismatica, questa mitica icona è entrata nella leggenda grazie al suo fiuto infallibile, grazie alla sua capacità di anticipare il futuro prima di chiunque. Così lapidaria da trasformare i suoi giudizi in sentenza, si è inventata da zero la figura della fashion editor. Tutto questo e molto altro è Diana Vreeland. Diana Vreeland. Non bisogna mai aver paura di essere volgari, solo di essere noiosi. In un giorno non precisato compreso tra il 1903 e il 1906, come ama ripetere in linea con il suo personaggio, Diana Vreeland viene al mondo nel cuore di Parigi. La prima cosa da fare è cercare di nascere a Parigi. Quasi tutto poi segue naturalmente. Siamo al numero 5 di Avenue Bois de Boulogne, che oggi si chiama Avenue Foch, e ad attenderla a braccia aperte ci sono i genitori e una sorella poco più grande di lei, Alexandra. La famiglia non è particolarmente ricca, ma certo benestante. Suo padre, Frederick Dalziel, di origini scozzesi ma cresciuto a Londra in ambiente aristocratico, è un banchiere elegantissimo. Sua madre, Emily Kay Hoffman, è una meravigliosa socialite americana che passa da una festa all'altra frequentando sia in Europa che in America i circoli bohemien della Belle Époque. Crescere in un contesto del genere, snob e cosmopolita, significa per la piccola Diana entrare in contatto fin da piccola con le persone più influenti, con gli intellettuali, gli artisti. Non ho imparato certo dalla scuola, ho imparato dal mondo. Sempre in viaggio per l'Europa con i genitori per incontrare qualche illustre amico a Roma, Londra o Berlino, gli eventi a cui partecipa sono di quelli a cui non molti hanno occasione di assistere. Per esempio, il matrimonio tra Gloria Gold e Lord Decies, per i quali fa da damigella, oppure l'incoronazione di Giorgio V. Da bambina ho visto l'incoronazione di Giorgio V a Londra. Era tutto meraviglioso. Ma i più eleganti erano i cavalli. I tell them wait and see. Che sarà, sarà. Whatever will be. The future's not ours to see. Che sarà, sarà. What will be. Bella Diana Vreeland non lo è mai stata. Non da piccola, quando quasi desta preoccupazione per la sua eccessiva magrezza, né da ragazza, quando sua madre in società si mostra un po' in imbarazzo per non avere partorito una bellezza come la sua. Io di mia madre ammiravo la bellezza, ma non eravamo in sintonia. Diceva, con una sorella così bella, peccato che tu sia tanto brutta. Sono sempre stata il suo piccolo mostro. La mia forte personalità si è formata allora, sentendomi chiamare brutto anatroccolo. Lucidamente, Diana decide che nella vita dovrà puntare su altro. Ed è così che inizia a costruire il suo personaggio, assecondando la sua indole stravagante. Sceglie abiti sopra le righe, acconciature che sorprendono, dà risposte sagaci a chi le fa domande poco chiare. Non è una posa, sta semplicemente lasciando uscire la sua vera natura. Non mi sono mai imposta di essere qualcosa che non ero. Ho semplicemente scelto di essere me stessa. Non era sempre facile, spesso le mie idee, a partire dal gusto per arrivare allo stile di vita, non venivano capite. Ma io sono sempre andata avanti a testa alta, dritta per la mia strada. Socialite. Con questa parola relativamente nuova, i media hanno classificato tutte quelle persone che frequentano gli eventi mondani, passando da un party esclusivo a uno ancora più esclusivo. Se le varie Paris Hilton oggi sono famose soprattutto per questo, la giovane Diana Vreeland, che ancora porta il cognome paterno, Deal, è l'antesignana di queste presenzialiste. Non per questo la sua frivolezza la porta ad essere sempre felice. È determinata, testarda, cammina a testa alta, ma qualche volta chiusa nella sua stanza senza nessuno con cui parlare, il suo malessere viene lentamente a galla. In casa circolavano pochissime emozioni visibili. C'è solo una vita, quella che vuoi per te e che riesci ad ottenere. Come si fa? Da giovane devi stare molto con te stesso e con le tue sofferenze. Con i suoi genitori gira l'Europa e incontra i personaggi più illustri del tempo, artisti, intellettuali, grandi coreografi come Nijinsky e Diaghilev dei balletti russi. L'ambiente è sicuramente il più grande stimolo per la crescita della sua sensibilità artistica e neppure lo scoppio della Prima Guerra Mondiale all'inizio la costringe a smettere di viaggiare. È troppo abituata ai weekend a Capri e in Costa Azzurra, alle passeggiate tra i castelli della Baviera per rinunciarvi. Presto però la situazione degenera e tutto cambia. All'improvviso non c'era più spazio per il divertimento, c'era solo la guerra. La gente moriva, la fame arrivava anche dove c'era stata opulenza, ed è per questo che i miei genitori, terrorizzati, hanno deciso di scappare in America. Gli Stati Uniti non sono l'Europa, ma nemmeno New York rappresenta l'America. È già una città unica al mondo, sviluppata in verticale, dominata dai grattacieli che uno dopo l'altro stanno componendo quello che sarebbe diventato il suo celeberrimo skyline. Le strade sono invase da gente immigrata da tutto il mondo e il fermento tecnologico e culturale sta portando ricchezza e innovazione. Nuovi ponti e la rete della metropolitana collegano i vari quartieri e per chi arriva in nave lo shock è talmente grande da rimanerne frastornati. Diana però non è una sprovveduta. Ha già visto fotografie, si è informata. Sapeva anche nella vecchia Europa cosa stava succedendo nel nuovo mondo. Adesso, con la sua valigia in mano e un cappello ingombrante che di tanto in tanto le cala sugli occhi, mette il piede sulla terraferma piena di entusiasmo per la vita che le si prospetta davanti. Si sistema con mamma e papà in un appartamento al numero 15 della 77esima ed è impaziente di scoprire tutte le novità che la aspettano. A New York, negli anni 20, ero una teenager che ballava e basta, frequentando gigolò argentini e messicani. Mia madre disapprovava. Non ci mette molto Diana, abituata com'è a conoscere il mondo, a prendere confidenza con New York. La città è così brulicante di attrattive che a lei sembra quasi un peccato perdere tempo a studiare e così, semplicemente, durante le poche lezioni che frequenta, pensa ai fatti suoi. Viene espulsa per mancanza di attenzione, mentre invece è un'ottima allieva alla scuola russa di balletto. Ama la danza, i passi, la leggerezza dei ballerini, la raffinatezza dei costumi di scena, ma ama anche e soprattutto andare alle feste. C'è un motivo se li chiamano i ruggenti anni 20. Espansione industriale, progresso, alcol a volontà, qualche anno prima del periodo buio del proibizionismo e mondanità. Sembra che non ci siano preoccupazioni nell'aria. Nessuno può prevedere che tra poco ci sarà il crollo del 29. Per far fronte all'enorme produzione di massa, bisogna creare consumatori di massa. Cioè bisogna fare in modo che i nuovi prodotti comincino a comprarli tutti e non soltanto quelli che se lo sono sempre potuti permettere. Si programmano tre strategie per agevolare il cambiamento. La diffusione di tecniche pubblicitarie sperimentali, l'arrivo di nuove forme di distribuzione, tra cui i grandi magazzini, e la possibilità di pagamenti rateali. Il mondo sembra a portata di mano. Diana Vreeland vive a New York gli eccitanti anni 20, in cui ogni certezza viene stravolta. Niente di meglio per una come lei che ha gli occhi aperti sul futuro. Sul piano del costume e della cultura si sente un profondo bisogno di modernità e si aprono le porte a tutto ciò che può rompere con la tradizione. In campo architettonico e decorativo, così come negli hobby quotidiani e nel divertimento, tutti sembrano aver voglia di rilassarsi dopo gli anni difficili della guerra. Francis Scott Fitzgerald scrive Il Grande Gatsby, ambientato a New York e a Long Island durante l'estate del 1922. Un ritratto acuto di quell'epoca indimenticabile, fatta di contraddizioni sempre in bilico tra leggerezza e tragicità. Nel 1974 Il Grande Gatsby diventa un film diretto da Jack Clayton, sceneggiato da Francis Ford Coppola e interpretato da Robert Redford e Mia Farrow. Un'ora del tuo tempo, un'ora sola, lontano dagli altri. Ora siamo qui, Jay. Tutti quegli ufficiali, i nomi te li ricordi? Te li ricordi i loro nomi? Forse il nome di qualcuno, ma non le facce. Che sciocchi gli uomini. Che sciocchi lasciare entrare nel loro cuore una diciottenne. Sentimentale. Tu non sei mai stato sentimentale, Jay. Dotata di un carisma incredibile fin da ragazza, nonostante la sua bruttezza, dovuta soprattutto a un naso ingombrante, a Diana basta entrare da una porta per essere immediatamente nel centro dell'attenzione. Viene amata, odiata, criticata, invidiata, ma non lascia mai indifferenti. Cammina con andamento sicuro nelle sue gambe sottili e ha sempre qualcosa da bere perché, dice, tutte le decisioni importanti si prendono con un bicchiere in mano. Una sera, all'ennesima festa del mese, incontra l'uomo della sua vita. Il banchiere Thomas Reed Vreeland. È da lui che prenderà il cognome che la renderà celebre. Il colpo di fulmine reciproco scatta all'istante e dura per 40 anni passati insieme, sempre più affiatati, fino alla morte di lui. Non sono mai stata a mio agio con me stessa, fino al giorno in cui ho incontrato Thomas Reed Vreeland. Da quel momento è stato tutto perfetto, romantico. Mi faceva sentire bellissima. Lui ne fa la sua regina, la adora, la porta in giro per il mondo, la ricopre di regali. Lei, dal canto suo, lo segue ovunque, quando per affari è chiamato a spostarsi. Si sposano il 1 di marzo del 1924 nella chiesa di St. Thomas a New York. L'anno dopo hanno già il primo figlio, Tim, futuro architetto e docente di architettura. Nel 1927 arriva Frederick, più tardi ambasciatore degli Stati Uniti in Marocco. Per entrambi avere una madre così eccentrica e poco gestibile è causa di problemi. Proprio loro, figli di una donna che dell'originalità a tutti i costi ha fatto una missione di vita, sognano invece la normalità. Ci volevo originali. Dovevi essere il primo o l'ultimo della classe, mai in mezzo. Sono cresciuto sognando una madre diversa. Dopo la loro luna di miele, i Vreelands si trasferiscono ad Albany, New York, dove rimangono fino al 1929. Per l'America è un momento terribile. Crisi, crollo dell'economia, disoccupazione. Come aveva fatto anni prima per sfuggire alla guerra, Diana percorre il mare al contrario e ritorna in Europa. Stavolta la città che la accoglie insieme a suo marito e ai bambini è Londra. Abitano in una bella casa bianca elegante e arredata con pezzi scelti, al numero 17 di Hanover Terrace, vicino a Regent's Park. Prima di loro ci vivevano lo scrittore Wilkie Collins e il poeta Edmund Gosse. Diana balla con le Tiller Girls e conosce Cecil Beaton. Le piace la capitale inglese, ma non resiste alla tentazione di provocare. Ho imparato tutto in Inghilterra. L'inglese. Ma la migliore cosa di Londra è certamente Parigi. Le donne dell'alta società vengono mantenute dai mariti ricchi che non si fanno problemi a soddisfare ogni loro capriccio. Diana stessa, d'altra parte, icona della modernità, a chi le ha chiesto se fosse una femminista, ha sempre risposto che lei il femminismo non sa neanche cosa sia. Farsi beffa di tutto e di tutti è parte del suo stile. E per questo, se in molti non la sopportano, perché non riescono a sostenere all'interno di una conversazione con lei il suo sarcasmo e i suoi commenti pungenti. Non raccontare una storia vera se è noiosa. Inventala. Come altre signore annoiate dai salotti, anche la Vreeland si dà alla moda. Se tutte corrono per aprire una loro boutique, lei però ha davvero una marcia in più. Il suo negozio vicino a Berkeley Square vende biancheria intima realizzata dalle suore di un convento spagnolo. E questa è già in sé una forma di marketing geniale. Wally Simpson è una delle clienti più assidue e Diana fa la spola tra Londra e Parigi, dove compra i suoi abiti, per lo più da Chanel, che qualche anno prima ha conosciuto. Tutto questo dura finché il signor Vreeland lavora in Europa, poi si torna tutti a New York. È lì che Diana passerà il resto della sua vita. La grande mela è sempre affascinante, ma la situazione alla metà degli anni 30 non è più quella degli anni ruggenti, spensierati e all'insegna del divertimento. La boutique di Londra è stata più che altro un gioco, un passatempo per uscire di casa e parlare di moda con le altre signore, non un lavoro vero e proprio. Adesso invece è tutto diverso. Tornata a New York, avevo con i soldi il rapporto che un alcolista ha con il whisky. Non ne avevamo così tanti, ho dovuto lavorare. Non mi sarebbe mai venuto in mente. Sono molto pigra. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a metà degli anni 30 e l'eccentrica Diana Vreeland è appena tornata a New York dopo un periodo passato a Londra. Parigina di nascita, ma newyorkese d'adozione, ha poco più di 30 anni e nella sua vita non ha fatto altro che passare da una festa all'altra, diventandone la regina. Tagliente, straordinaria, in grado di fare della bruttezza la sua originalità, è socialite per antonomasia e provocatrice per vocazione. Negli ambienti più chic tutti la conoscono e tutti temono le sue battute al veleno. La gente non ha un punto di vista, ha bisogno che tu glielo dia. Da te se lo aspetta. Della cura dei particolari, Diana Vreeland ha fatto una ragione di vita e non perde occasione negli eventi in cui c'è l'elite che conta di mostrarsi diversa da chiunque. La sfida, prima di tutto, è con se stessa. Ama guardarsi allo specchio e stupirsi per il modo in cui ha saputo scegliere un accessorio, per l'accostamento azzardato che ha fatto, per l'abbinamento di colori che nessuna donna a parte lei potrebbe osare. Oggi tutto è già stato inventato. Gli stilisti attingono a mondi lontani e in passerella come per la strada vale tutto. Non è così negli anni 30, quando il dress code è rigido e mettere un paio di pantaloni di taglio maschile per una ragazza significa la più grande delle trasgressioni. Questa sera c'è un party importante al St. Regis e i Vreeland, come sempre, sono tra i primi invitati della lista. Quando Thomas, guardando l'orologio, bussa alla porta del bagno per dire a sua moglie che hanno fatto tardi, lei gli apre con indosso un vestito di merletto bianco di Chanel, un bollerino sulle spalle e tra i capelli appuntati con delle forcine dei boccioli di rosa. Lui, innamorato come il primo giorno, le sorride e l'aiuta a infilarsi il cappotto. È un uomo, la moda non gli interessa granché, ma guardandola non può che essere d'accordo con quello che lei dice sempre. Se non hai classe, non sei nessuno. E non parlo di vestiti, è la vita che stai vivendo dentro il vestito che conta. Deve pensarla così anche Carmel Snow, storica direttrice di Harper's Bazaar America, che non appena vede Diana ridere in mezzo alla pista mentre volteggia con il suo whisky in mano senza spostare di un millimetro le pieghe del suo Chanel, si avvicina per parlarle. Sa chi è, ne ha sentito parlare, ma non si sono mai incontrate prima. Fanno due chiacchiere e la Snow, senza pensarci troppo, le chiede se le piacerebbe lavorare per il suo giornale. Harper's Bazaar è la Bibbia della moda e Diana è già consapevole che lei le mode, più che seguirle, le inventa, perché per lei la moda è il modo di conoscere il mondo. Risponde di sì e a poco più di 30 anni, con alle spalle solo una breve esperienza nel suo negozio di biancheria intima a Londra, entra a far parte della rivista. Si inventa subito una rubrica, la propone, gliela affidano. Il titolo è Why Don't You? E consiste in una serie di consigli stravaganti per approcciare la vita in un modo inedito, con frivolezza, senza dare troppo senso a niente, usando la leggerezza come chiave di lettura per sopportare qualsiasi cosa, perché in fondo la follia non è altro che una forma di evasione dalla realtà. Perché non lavate i capelli biondi di vostro figlio con lo champagne che vi è avanzato, come fanno in Francia? Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede. I consigli della rubrica Why Don't You, che Diana Vreeland giura di aver sperimentato tutti in prima persona, fanno il giro del mondo, colpiscono l'immaginario e sono così strampalati che perfino il New Yorker, rivista intellettuale per definizione, ne parla facendone una parodia. Spesso non è così facile distinguere l'originale dalla copia. perché non rivestite il portabagagli della vostra automobile con la pelliccia di giovane alce? Come soprabito da indossare dopo aver sciato, procuratevi quello di un autista italiano di colore rosso-arancio foderato con stoffa verde scuro. Ma al di là del successo della sua rubrica, Diana Ryland, prima di chiunque, si inventa il mestiere di fashion editor. Fino a questo momento i fotografi venivano semplicemente incaricati di fare un servizio di moda. Lei invece li indirizza per dare forma all'idea precisa che ha in testa. È una professione davvero nuova. Non si tratta più di consigliare soltanto dei cappelli alle signore dell'alta società. Lei ha un vero e proprio metodo. Partendo dall'incredibile galleria della sua immaginazione, lavora a stretto contatto con i fotografi perché riescano a tirare fuori quello che vuole. E nessuno, incluso Richard Avedon, che proprio con lei comincia la sua carriera, può resisterle. Le persone che mangiano pane bianco non hanno sogni. Presto cominciano ad arrivare alla sua scrivania decine di fotografie di aspiranti modelle che sperano di convincere il suo fiuto. Lei, lapidaria come sempre spesso, si limita a liquidare le ragazze con un commento acido. Ma un giorno un'immagine la colpisce davvero. Prende in mano la fotografia e si alza di scatto dalla sedia, avanzando lungo il corridoio della redazione senza staccare gli occhi da lì. Non si accorge nemmeno se le parlano, tanto è occupata a pensare come usare quella bellezza che si ritrova tra le mani. E questa bellezza è davvero speciale. Si chiama Lauren Bacall. Lauren Bacall. New York 1924. In un caldo 16 settembre, pochi mesi dopo il matrimonio di Diana Ryland con il suo Thomas e a distanza di pochi isolati, viene alla luce la piccola Betty Joan Persky, che si farà chiamare Lauren Bacall. Da bambina è già bellissima, occhi luminosi, capelli perfetti, viso tondo che ricorda quello di una bambola di porcellana. Suo padre è russo, sua madre è polacca. Come molti ebrei dell'est Europa, sono emigrati in America per sfuggire alla povertà, nella speranza di trovare una terra promessa e un futuro migliore. Lauren cresce senza una figura paterna. Papà abbandona sua moglie quando lei è ancora piccola e la va a trovare pochissime volte per tutto il corso della sua vita. Compleanni dimenticati, un vuoto nei momenti importanti. Lauren reagisce attaccandosi ancora di più a sua madre e agli zii materni, a cui è affezionata come una figlia. Ogni tanto mi sono ritrovata a pensare che cosa sarebbe stata la mia vita con a fianco una figura maschile che mi desse dei consigli, che mi insegnasse a vivere, ma non mi sono mai sentita veramente sola, perché sono cresciuta in una famiglia unitissima. Il cognome Bacall, neanche a dirlo, viene dalla famiglia della madre. Non che suo padre non l'abbia riconosciuta, semplicemente lei sente di non avere nulla a che fare con lui. C'è un aneddoto al riguardo. In origine il cognome è Weinstein Bacall, ossia bicchiere di vino. Ma siccome è lungo e difficile, all'arrivo ad Ellis Island viene abbreviato nel più semplice Bacall, con una sola L, per praticità, durante la registrazione nell'elenco degli immigrati. Lauren poi aggiunge una L, per garantire la pronuncia corretta ovunque. Lauren Bacall ha lo spettacolo nel sangue. Volteggia per la casa sognando di fare la ballerina, prende lezioni da un insegnante, si esercita per ore alla sbarra. Il fisico le consente di sognare. È minuta, slanciata, con un portamento naturalmente elegante che la disciplina della danza perfeziona. Da adolescente si appassiona al cinema. È vorace e curiosa. Tutto quello che appare sul grande schermo ha per lei un fascino indescrivibile. In particolare, si dice letteralmente innamorata di Leslie Howard, che scopre per la prima volta quando guarda Avventura a mezzanotte del 1934. What were you talking about? You. What about me? You and love. Why are you grinning like a Berkshire kitten? Cheshire, darling. Well, Cheshire then. And I do resent being called a cat. I didn't. I called you a kitten. Well, kittens turn into cats. La sofisticata commedia diretta da Archie Almeyo ha per protagonista, insieme ad Howard, Bette Davis, l'altro grande mito di Lauren Bacall. Quando ha 16 anni, un giorno la incontra e le chiede un autografo. E ancora oggi, dopo una vita così intensa, uno dei ricordi a cui lei è più legata. Eppure la Bacall alla Davis non ha nulla da invidiare, se non il successo. Anche lei è bellissima e anche lei è, o almeno sogna di diventare, un'attrice. Frequenta l'Accademia Americana di Arti Drammatiche, 2 anni di studio al 120 di Madison Avenue, New York. Di qui sono passati e passano moltissimi divi di ieri e di oggi, da Grace Kelly a Diane Barrymore, da Spencer Tracy a Peter Weller, da Adrien Brody a Danny DeVito. Lauren, talentuosa, divertente e bellissima, oltre che dotata di un grande carisma, riesce a conquistare qualche piccola parte a Broadway e si fa le ossa. Intanto, per guadagnare qualche soldo e contemporaneamente accelerare la sua visibilità, fa la fotomodella. La moda la appassiona e Harper's Bazaar è per lei, che non ha grandi possibilità, l'unico lusso da concedersi. Ecco perché un giorno decide di mandare alcune sue foto alla rivista. Guardare quei servizi di moda mi faceva sognare. Quanto desideravo essere una di quelle ragazze in copertina. Quando ho mandato le foto, non ci speravo granché. E invece, grazie a Diana Reland, la mia vita stava per cambiare. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni 40 e New York è già la capitale della moda. A dirigere Harper's Bazaar, la rivista che detta le tendenze, è la donna che si è inventata il lavoro di fashion editor, Diane Reland. Memorabile il suo trucco eccentrico, che si fa rigorosamente da sola. Moltissimo bianco sul viso per far sembrare la faccia a una maschera del teatro Kabuki. Bocca rossissima, niente sugli occhi e pomelli delle guance altrettanto rossi. Tutto esagerato, tutto asimmetrico, tranne i capelli, tinti di nero e tagliati come un elmetto. Ogni ragazza dovrebbe studiare da geisha. Il Giappone non ha petrolio né diamanti, ma il senso dello stile. Se paragonata a lei, la vipera Anna Wintour, attuale direttrice di Vogue, è un cucciolo addomesticato. Predicando che tutti abbiamo bisogno di un leggero tocco di cattivo gusto, la Reland è per decenni l'unico arbitro dello chic ed è la sua unica opinione che conta davvero. Sotto la sua guida rivoluzionaria, Harper's Bazaar cambia forma, seguito a ruota da tutte le altre riviste. Per lei, Andy Warhol inizia a fare i suoi primi disegni per mantenersi e con lei il grande fotografo Richard Avedon impara il mestiere. È arguta, impossibile, meravigliosa, tutto è il contrario di tutto. Però non sbaglia mai e quando si trova sulla scrivania delle fotografie di una ragazza diciannovenne che si propone come modella, non ha dubbi. Era difficile che io mi stupissi di qualcosa, ma quando ho visto per la prima volta quelle fotografie di Lauren Bacall, ho sentito che la ragazza aveva stoffa. Non le avevo nemmeno parlato, ma l'ho capito subito. L'ho chiamata di persona, la volevo incontrare e farla posare per il giornale. La carriera di Lauren Bacall comincia così, con una foto di copertina pubblicata su Harper's Bazaar. Grata a Diana Reland per averla scelta, la ragazza va dalla editor per ringraziarla. Lei sa benissimo di avere cambiato il corso del suo destino, ma l'ascolta distrattamente, senza mollare il bocchino che tiene perennemente tra le dita, e liquida la questione con un commento dei suoi, fatto con la sua solita voce roca, fissando un bicchiere d'acqua. «Sono pazza dell'acqua. Mi interessa il suo schema. Avrei voluto essere un surfer. Sono dispiaciuta di non averlo fatto». Lo splendido primo piano di Lauren Bacall in copertina di Harper's Bazaar attira l'attenzione del regista Howard Hawks, che sebbene non sia un'attrice famosa, la vuole come protagonista di Acque del Sud, a fianco del grande Humphrey Bogart. Tra i due attori scoppia un amore travolgente. Nonostante lei abbia 25 anni in meno di lui, il sentimento è così profondo che lei, dopo un matrimonio e due figli, gli rimane accanto fino alla morte, dichiarando sempre che Bogart è stato l'unico amore della sua vita. In lui c'era qualcosa che traspariva sempre, qualunque ruolo recitasse. Io credo che sarà sempre affascinante, per questa generazione e anche per tutte quelle che seguiranno. Qualcosa in lui ti faceva dire: ecco un uomo che nessuno può comprare. E nel suo lavoro questo si sente. Si sente anche la sua purezza, una cosa stupefacente se ripensa al tipo di ruoli che interpretava. E poi la solidità, l'integrità. Via via che il tempo passa, siamo sempre meno capaci di credere. Se vedi Bogart, senti che quest'uomo crede in qualcosa. Diana Vreeland attraversa la moda e ne modifica il corso. Dopo gli anni di Harper's Bazaar, diventa direttrice di Vogue dal 1963 al 1971 e riceve l'incarico di Special Consultant per il Metropolitan Museum of Art. Per 15 anni porta più di 1 milione di visitatori all'anno e ottiene per il museo incredibili donazioni di abiti e accessori, segnando così un nuovo modo di fare mostre. Jacqueline Kennedy, quando deve costruire il suo look da First Lady, chiede aiuto a lei. Le ho consigliato di portare un manicotto di zibellino il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Era solo per ragioni pratiche, pensavo che sarebbe morta di freddo. Ma penso anche che i manicotti siano tanto romantici perché hanno a che fare con la storia. Lauren Bacall, intanto, dopo l'intuizione di Diana Vreeland, diventa una star. Sposata con Humphrey Bogart, recita a suo fianco in titoli di successo come Il grande sonno, La fuga e L'isola di corallo. Ma è nelle commedie che risulta davvero superlativa. Una su tutte, Come sposare un milionario, con Marilyn Monroe, datato 1953. Yes, just watch the fur fly, as the most talked about girls in Hollywood go out loaded for big game. Monroe, Grable and Bacall, adding their own wonderful dimensions to the eye-filling dimensions of CinemaScope. Lavora oltre che al cinema, in televisione e in teatro. Passa con disinvoltura da Sidney Lumet a Lars von Trier. Presta la voce per cartoni animati. Riceve premi su premi. Mentre la donna che l'ha scoperta, Diana Vreeland, nel 1989 muore, facendosi ricordare come una vera e propria icona che ha attraversato i decenni, la Bacall ancora oggi non si è stancata di recitare. E il 14 novembre 2009 arriva il più grande dei traguardi. Le viene conferito il premio Oscar alla carriera. Diana Vreeland e Lauren Bacall, due icone unite dal destino, femminilità, coraggio, talento e una buona dose di leggerezza che spesso è la vera chiave della felicità. I difetti non vanno eliminati, vanno esasperati. Di un grande naso, io ho fatto una firma.